Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, bentornati. Il programma prevede di parlare di ipocriti in armi, di uno sull'altro e nessuno su niente. Di una provocazione da strega, nonché di, se c'è il tempo, di onorevoli stupefatti.